Adesso tu sei parecchio in mezzo. E poi non potete vedere, perché se no qui si sta già a sette abbaidenti. Abbaidenti può sapere cosa lo fai. Allora, la rubedugna è sempre più attenta, così se ne dai peggio come a te. Tiena, rubarello. E c'è una parte di nuovo all'altra, dopo mi chiama, ma che fa che tu sei in una indica e in quello che si vede a Trangosa? E se prendiamo, e infatti io se ne mi si gioca per la caramellini e i cioccolati, i giomari, e qui tu rada il cibo a fine a fine, non lo comprendo. E a che tu li cagli, è li cagli, il suo Graziano. Ah, te lo immagini, afferra tu, diciamo che... E bisogna controllarlo, bisogna controllarlo per me, se no chi su è molto buono, ma sotto sotto è travagliente. Ehi, non avevo travagliato, Mari. Una cosa fai a me, troppo vecchio questo, Mari. Altri immaginesi, Giomari. Non per male, no, altri immaginesi, che Graziano. E un trabello cuscino, e poco e fianchina lì, catta, ru, i sattetti erano ultimi. E questo per quello si è voluto in Italia. Come fare a voi, se per l'Italia. Che rinchio. E quanto è che va sì? Chi è scidato mai? Lui mi fa vedere il suo italiano. Rispondi. Ehi, dimmi amico, dimmi cosa vuoi, dimmi. Ehi, sì, Portogallo, sì, dove sei? A casa in Sardegna. Complimenti, salati, ci sentiamo se Dio vuole domani. Ciao, andate lì, sono i primi, vi ascolto per il finale del mio chilo, vai. Ciao a tutti e a tutti e due. Ciao, Giovanni, buona cena, buon tutto, alle prossime. Avanti, Rus. Ciao Giomari, salutoni, buona cena, salutami la tua 50. Tutto ok, va bene, a domani. Riprendi Natali, sei tanto Graziano e qua seduto, io tanto comincio a preparare da un altro po'. Cappa. E qui io mi preparo qualche cosa, da mettere sotto i denti, anche io. E spengo il braccio, sentiamo alle prossime cose, salutami a Graziano, al limite ci sentiamo domani se ci siete, salutami a tutti, correti per me, alle prossime. Ehi, ciao Natalino, buona carica quando la fai, ciao Gio Maria, buona carica anche a te e a Correa, ciao, a domani. Ok, ciao, buona. Ciao. trovo nel canale una chiamata internazionale e collego qualcuno. Negativo. Così, aspetta, ti funziona, la cosa, sì, è abbastanza.